25 aprile, è nata una puttana, è nata chiamata Democrazia Cristiana. Erano chiamati Cellerini, assassini, papabili. E allora, potere chi lavora, e ora, potere chi lavora. La luna, vogliamo il lavoro. Sta Repubblica è fondata sul lavoro, dateci il lavoro. Anche per il fatto che le commesse ce ne sono richieste di lavoro. Quindi non è in crisi l'azienda? No, niente affatto, niente affatto, non è in crisi, tutt'altro. Lei è operaia? Operaia. 24 anni di anzianità, licenziata. Sola. Sola fra le sola, due. Nessuno, non ho nessuno. Occupazione di fabbrica che ha avuto ben 92 giorni di occupazione di fabbrica qui dentro, c'è stato anche un morto nel 62, quando eravamo Pirelli Lastex ancora, per un'avvertenza aziendale tra l'altro, non per un contratto nazionale, non per un'avvertenza come questa grossissima che parla di licenziamento di metà del personale addirittura, allora era per un'avvertenza particolare, ecco, erano in 380-390 allora. C'è stato un morto, ripeto, perché hanno fatto funzionare delle linee mentre non erano stati disposti i congegni, avevano detto con termini ricattatori che si doveva, per procedere alle trattative, per riprendere le trattative, avevano chiesto di riprendere il lavoro, qualcuno ha fatto scattare dei congegni e tutto il resto, c'era un uomo della manutenzione che è andato a finire dentro nei rulli, insomma, completamente quasi schiacciato. Alla lotta del 1962 è stata effettuata solo dalle maestranze di produzione, perché a quel momento gli impiegati non erano sensibili al problema e perciò c'è stata una divisione netta, essendo gli impiegati venuti a trovarsi in una condizione di miglior favore, avendo lo stipendio garantito mensilmente come se fossero stati in fabbrica. E chi ha pagato in quel momento è stato solo la maestranza di produzione. Invece oggi, all'occupazione iniziata il giorno 22 di novembre, non solo partecipano gli operai, ma partecipano i tecnici impiegati, addirittura tutto il personale di organico, dal direttore dell'ufficio commerciale italiano ed estero, all'ultimo operaio, quale può essere quello che scopre i reparti, capisci? Nel 69-70 abbiamo regolarmente lottato per i nostri contratti con tutti i settori chimico della gomma e dopo di questo abbiamo avuto la cessione del pacchetto azionario nell'aprile del 72 da parte di Pirelli a un gruppo internazionale che è cappeggiato un po' il cervellone, un certo Angelo Menegatto, che ha una fabbrica in Germania, un'altra e l'ha fatta chiudere l'anno scorso, una fabbrica in Francia e l'ha fatta chiudere l'anno scorso, una fabbrica ce l'ha in Spagna, a Barcellona, che invece quella funziona molto bene e riceve continuamente ordini che già erano stati dirottati da qui, un'altra fabbrica la sta costruendo, già quasi terminata, ultimata, in Malesia. Ecco, questo padroncino che non si sa esattamente quale quota di questa holding, di questa piccola multinazionale, quale quota detiene, ma in pratica più che la questione finanziaria, più che la questione del pacchetto, quello che detiene in mano sua è il potere di poter decidere di una cosa o di un'altra addirittura. Lui ce l'ha in mano, questo Angelo Menegatto, che attualmente si trova a Capriate San Gervasio. Ma pensa, direttore generale, ma pensa che dopo c'era possibile avere un direttore generale che genera lì? Quanto ci costava quello lì? 400. Nelle spese del bilancio. Quello lì non ha mai fatto niente, mai niente, ma pensa a leggere i topolini e basta, perché poverino non sapeva nemmeno parlare, porco cane. Figlio unico del menegato, non sa aprire bocca. Ora, pensa un po', ce l'avevano mandato come direttore generale prima, no? Pazzesca. Ti dico, ma ti giuro, lo chiamano alla Pilati, se lo sanno che là girovolava ogni tanto dalla fabbrica, no? Figlio unico, sai, di questo, con le sue Porsche, con le sue Ferrari che aveva, la maniera della Honda, ha scassato una volta tranquillamente una Honda, è tornato a casa, forse niente, dopo cambiava la Ferrari con la Porsche, così, ma la fesseria era, no? E ce l'hanno mandato qui addirittura, ma fare che cosa? Se faceva meno il direttore generale, dico, le cose andavano in un'altra maniera. Ma l'emigione di chi ha posto il direttore si fa la lite dell'ostia. E allora i giornalini di Topolino lì davanti, e si leggeva Topolino. Bene, bene, bene, bene, gatto, bene, bene, bene, bene, topo, bene, bene, bene, bene, cane, bene, bautero, mangela, bene, bene, bene, bene, gatto. Se tu riuscissi ad avere un indumento o qualche cosa di qualcuno, come si potrebbe fare? Per mettere a posto, per sistemare il padrone? A Torre Brusal. No, o Falboi. Falboi, dai. Ah no, potrebbe, sì. Dai. Secondo la tradizione si fa bruciare un indumento da quella persona lì, se si riesce a averlo, col Signore Benedetto. È lì. Dopo le tiri dietro tutte le maledizioni che puoi avere, che ci sta su questa madre terra, quello che pensi con fede, è quello lì le va. Me lo dicono che le va. Naturalmente, ma tutto, ma certo. Come dopo 7 mesi di depressione che sei sotto qua, non la direi mica con fede. Non so adesso più pressato di così, non so. E dopo cosa succede quando la pentola comincia a scaldarsi? Quando comincia a bollire, ecco, lui le va tutte quelle maledizioni lì. Ma lui so. Ma naturalmente, certo. Cosa sente bruciare la pelle? Quello lì, l'abuso del culo. Però se lui in quel periodo lì, che le viene quelle cose qua, va a farsi benedire da un prete, da un santone, dopo ti tornano indietro tutte a te quelle maledizioni. Oh, sì, caro mio, ecco perché c'è un po'. Da rischio. Allora mi sa che il padrone in questo periodo è sempre andato a farsi benedire. In modo che tutte quelle che le abbiamo tirate sono tornate dietro a noi. Ma io però ne ho fatto un altro, ho bruciato le olive sante. Quella notte. Ancora con questo sistema. Anche ieri. Le brucine, le olive benedette, le ho bruciate e le ho tirate dietro le mie maledizioni. Ma no, pensate, tutto, fino ai sommorgo maledite. Grande, Ali Balu, dolore vero, a chi non crede. Mali, malu, all'unità. Mali, malu, voglio ripetere. Mali, malu, a me negato. Mali, malu, i nostri figli. Mali, malu, non han paura. Mali, malu, l'unità c'è. Mali, malu, sarà duratura. Mali, malu, e per capire. Mali, malu, quel che c'è di vero. Mali, malu, siamo di sinistra. Mali, malu, non è un mistero. Mali, malu, bravo! Io sono sempre stato un ragazzo d'oratorio, vuoi perché sono nato in una famiglia così, vuoi perché... Ma penso che mi dovrò ricredere, cioè se qualcuno si è mosso, se qualcuno ha fatto qualcosa, bisogna andare sulla sinistra, non so se socialisti, se comunisti, guarda io non mi intendo molto di politica, cioè non ho linguaggio. Se qualcuno ha fatto qualcosa sono stati quella gente lì, gente che magari 10 anni fa, 20 anni fa, quando io ero bambino, mi diceva quello era un comunista, sai questo qui. Invece oggi vedo come la vita, il comunista è quello che aiuta la mia famiglia, se può fare qualcosa qui per il mio lavoro. Da 28 giorni, 29 giorni che continuiamo la lotta qui, credo di non essermi mai fermato un giorno, insomma, faccio dalle 16 alle 20 ore al giorno qui dentro, compreso anche le notti tante volte. Ma la maturazione credo che avvenga proprio anche in momenti particolari come questi, prendendo atto di una certa situazione, di certe ingiustizie come sono state portate avanti addirittura in un modo indecente proprio. Quando trovi della gente che proveniva, era stata fino all'altro ieri convinta che del padrone buono o roba del genere, e che oggi la trovi completamente schierata da una certa parte, e che ha capito, si è resa conto di certe cose, e che ti dà la forza da dietro. Ma l'importante è, pensa oggi, che dobbiamo arrivare in fondo con 300 come abbiamo iniziato la lotta. Abbiamo iniziato in 300, dobbiamo arrivare fino alla fine in 300, perché questo è l'obiettivo iniziale nostro. È solo così l'unico modo per uscire da una certa situazione. Perché se va bene così nella nostra fabbrica, cioè se va male per tutti, e cavolo, fanno tutti così 15 giorni di integrazione e poi sbattono fuori tutti come hanno fatto con noi. Sbattono fuori 137 persone così a vambera, ma dico, scherziamo. No, è il fatto che se va bene con noi, se le va bene con noi, fanno con tutti così, salviamo quel posto dei nostri mariti, i nostri figli. Chi mi prende a me a lavorare a 48 anni, dopo 29 anni qua di anzianità? Chi mi prende? In 29 anni sempre sulle vasche dell'acido, acetico. E cosa prendo? Qua sono già arrivato a una categoria. E se vado da un'altra parte bisogna cominciare con la manovale. Proprio buttarmi fuori sulla strada così come un delinquente. Guardi che è una cosa che non si riesce a digerire questa cosa. Dopo 29 anni. Non è un giorno, 29 anni ne ho. Perché credevamo una lotta giusta contro l'agire del padrone che era ingiusto, perché era fatto proprio così. E dopo per difendere i 30 anni, anche se che ha lavorato, 27 anni, 26, 20, 15, 31, tutta la vita, la nostra vita era qua, perciò il cuore si può dire, perché abbiamo passato più tempo qua noi che in famiglia. 25-30 anni di lavoro, tutta la vita l'abbiamo andata qua, quindi le nostre migliori energie le abbiamo buttate qua. Improvvisamente, padre, giorno o l'altro, stop. Non c'entra la politica per me, è proprio per me un raffronto tra il datore di lavoro e il lavoratore. Indipendentemente, anche se il padrone fosse un democristiano, un comunista, non ha importanza, è soltanto, ho capito, l'ingiustizia di abbandonare uno dopo tanti anni. Ognuno aveva delle sue attività particolari, chi si dava da fare per aiutare un po' tutti i delegati del consiglio di fabbrica che cercavano di darsi da fare in un modo o in un altro. Ognuno si è dato un po' un compito quasi in modo autonomo, diciamo, o lo proponeva lui in modo autonomo addirittura anche ai delegati del consiglio di fabbrica. Chi lo faceva spontaneamente. Vabbè, per esempio le caldaie sono sempre state in funzione. Guardi in fontineria. al posto delle guardie regge in portineria, che sono ex carabinieri in congedo, quelli sono spariti completamente, ci sono stati degli operai spontaneamente che hanno fatto la loro sorveglianza. Sorveglianza all'impianto del cioè metano. Le persone più seri, gli operai più seri, più coscienti. Guardia al metano. Per il consiglio di fabbrica c'era parecchio da fare, da operare fuori soprattutto per fare assemblee. Le assemblee poteva essere in ogni momento, anche 3 o 4 giorni assemblee. Senti, avete parlato? Come passate il tempo? Lavoriamo, portiamo il nostro lavoro, lavoriamo uncinetto, facciamo i golf, i centri, dei pizzettini, ci arrangiamo, facciamo un po' di tutto per occupare il tempo. Abbiamo imparato tra di noi tutto il lavoro che ho fatto, golf e tutto, tutto qua nell'occupazione. Quindi lavorate praticamente... Maglia, vestiti, ci sono delle ragazze che sono capaci di tagliare. Io ho imparato a tagliare, fare la sarta, a lavorare a maglia come si deve, uncinetto. Un po' si lavora e un po' si fa anche, adesso non più, ma negli ultimi tempi si faceva sempre dimostrazioni, sfilate, blocchi stradali, si andava dappertutto, sì, si faceva. Siamo andati anche su la Basseriana, là non mi ricordo più dove, a fare manifestazioni con cartelli, con volantini. E facevamo tante robe, appunto per attirare l'attenzione, siamo andati in comune alla sera, quando c'era un terreno che era ancora zona industriale, volevo fare residenziale, volevo passare a zona industriale, ma fai tante robe, insomma abbiamo imparato di tutto, abbiamo imparato a risparmiare, abbiamo imparato ad andare al mercato invece di andare nei negozi, abbiamo imparato un po' di tutto, anche a cucinare, una con l'altra si racconta le ricette, prova a fare così, prova a fare così. È stata un'esperienza che torna utile anche per tante altre robe, torna utile anche per partecipare alle cose sindacali, al mondo del lavoro, alla politica anche, tutto insieme è tornato utile. Ci ha un po' svegliato su tutto, perché prima eravamo un po' abbastanza addormentati, invece questo ci ha svegliato un po' in tutto e dappertutto. Poi durante l'occupazione sono stati dipinti di qua. Uno dei nostri dei dipendenti è anche pittore, è abbastanza quotato anche, e ha dipinto un paio di quadri. È stata fatta una lotteria e i soldi del ricavato sono entrati. No, era la birra. Che tipo di soggetti faceva? È un pochino astratto. Informale. Quadro grande. E l'unico che dipinge tra gli operai? O... No, ce ne sono altri. Come passate il tempo qui? Bestemmiando, giocando a carte. Sono parole bruciate, un po' a carte. Fa qualche passeggiata sui piani. Ogni tanto ci va a vedere i pianti come sono. Ogni tanto ci incontriamo, facciamo un pianto assieme, allora cosa che è? C'è l'ansia che c'è. Osso galare. Per dire la primiera è Iori. Ho fatto altri Iori. Mi dite qui perché era Osso. Allora fa la sua. Trico. Certo. È meglio dargli un po' di moneta. Alberto, che la bandiera bianca com'è là? La bandiera bianca. No! Bandiera bianca la vogliamo, no! Perché è il simbolo dell'ignoranza, bandiera. Bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera, bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera rossa la vogliamo, sì, bandiera rossa la vogliamo, sì, perché è il simbolo della vita. scossa, bandiera rossa, la vogliamo qui. Teresa, con quella pinota. Pinota, bella pinota, una grazia io chiedo a te. Pinota, bella pinota, una grazia io chiedo a te. Dimmi pure che grazia vuoi, una notte dormir con te. Dimmi pure che grazia vuoi, una notte dormir con te. Quando mamma e papà non c'è, vieni, vieni all'unditore, quando mamma e papà non c'è. Unditore sono già suonate, con pinota vengo ad aprì. Unditore sono già suonate, pinota vedo aderì. Mi stanza in camiciola, lascia il tempo di divertì. Con mi stanza in camiciola, lascia il tempo di divertì. Tanto è inutile che tu ti vesta, perché nuda tu piace a me. Tanto è inutile che tu ti vesta, perché nuda tu piace a me. Metti, metti in quel petto nero, le tue forme fai risaltar. Metti, metti il colpetto nero, le tue forme fai risaltar. Metti, metti la sottana bianca, che è il che manca che lo che me. Metti, metti la sottana bianca, perché manca che lo che me. Metti le scarpette rosa, fatte apposta per ben ballare. Metti, metti le scarpette rosa, fatte apposta per ben ballare. Metti in testa un cappellino, che a passeggio ti porterò. Metti in testa un cappellino, che a passeggio ti porterò. E poi quando saremo fuori, un bacetto io ti darò. E poi quando saremo fuori, un bacetto.